Ponte Radio. In diretta da Radio Neanderthal, Ponte Radio, spazio condiviso tra 7 radio autogestite: Onda Russa, Quar, Wombat, Eustachio, Spore, Blackout e Neanderthal. Condotto a rotazione ogni venerdì dalle 13 alle 15 a segnali unificate di tutte le radio che lo compongono. Oggi tocca a noi di Radio Neanderthal. Buon ascolto. E allora, oggi sentirete da Radio Neanderthal diversi contributi delle trasmissioni che animano la regia di questa radio: Full Time Blues con geopolitica del Mediterraneo nel V secolo avanti Cristo, contributo di Ghigliottina, lo Stato a Mala, saremo per sempre disertori, ma partiamo con Non siamo razzisti, sono loro che non vogliono essere americani. Tu fa l'americano, americano, americano, senta me chi fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi ti senti disturbato. Tu abballo rock e roll, tu gioca a baseball, bei sord beccamella. E allora iniziamo per raccontarvi del sacrificio che la città di Napoli è stata costretta a fare per la realizzazione dell'organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, divenendo colonia statunitense affinché la guerra continuasse all'infinito. Come ti può capire chi ti va bene? Allora, partiamo con ordine. Nel 1949, 12 paesi, tra cui l'Italia, decisero di stipulare un accordo internazionale di natura puramente difensiva, senza dar luogo a nessuna struttura militare comune. Nel 1950, però, l'Alleanza ritiene che è arrivato il momento di dar vita ad un vero e proprio blocco armato, formato con il concorso di tutti gli stati membri, ma senza che questo pregiudichi le rispettive autonomie anche militari. Nascono così alcuni quartieri generali supremi, tra cui il quartiere generale supremo delle forze alleate in Europa, nota in sigla come SHAPE, Supreme Headquarter Holy Power Europe, e comandato personalmente dal generale Eisenhower. SHAPE è il vertice di un'immensa piramide cui fanno capo più quartieri generali interalleati e subordinati. Per l'esattezza 5, quello del comando della regione difesa aerea della Gran Bretagna, quello della forza mobile del comando alleato in Europa, forze terrestri, e infine i comandi che corrispondono alle tre grandi fasce geografiche in cui è possibile suddividere l'Europa: settentrionale, centrale e meridionale. La sede di quest'ultimo viene fissato a Napoli. Da Napoli dipendeva il quartiere NATO di Verona, cui facevano capo le forze terrestri alleate dell'Europa meridionale Landshut e altri tre quartieri generali installati anch'essi a Napoli: quello del comando delle forze alleate dell'Europa meridionale Air South, quello del comando delle forze navali di intervento e sostegno dell'Europa meridionale Comnav South e quello del comando delle forze navali alleate dell'Europa meridionale. Ma nel contesto dei rapporti tra l'Italia, Stati Uniti e l'Alleanza Atlantica, Napoli è anche sede della base logistica di appoggio per le navi e gli aerei della Sesta Flotta e di un centro di comunicazioni navali. Tu vuoi fare l'americano? Americano, americano, ma si nati in Italia. Allora, riassumendo, il nostro governo decide, sia pure sotto le prevedibili pressioni degli angloamericani, che tocca al bel golfo il grande sacrificio: trasformarsi nel più grande porto militare d'Europa, offrendosi come il maggior contributo italiano al sistema difensivo atlantico, rinunciando così al suo stesso sviluppo, anzi a ogni futuro possibile. In compenso, tutto il Mediterraneo ai suoi piedi, ma non come mare di pace, ma come mare di guerra. Thank you. fa marone, che notte ci fatte non son. A terra non tratta con danno all'on. No bon ton e pardon, ma come saran fame e come. Non va più bon, è arrivata l'ora, ma l'ora peggiora. L'oro d'ora, per noi peccatora. Se scelto pianeti all'erta, se scelta distorta, poi natura è morta. A rigore, l'occhio napoletano sarebbe dovuto restare chiuso in direzione del litorale nordafricano, i cui territori non rientravano nell'area dell'applicazione del Trattato Atlantico, benché inglesi e soprattutto americani fossero presenti un po' dappertutto. Per esempio in Marocco, dove, nonostante le proteste dello stesso generale francese Guillon, 15.000 specialisti statunitensi avevano organizzato basi di guerra aeree e navali. Tanto per citarne qualcuna, Ceuta, Algeciras, Cartagena, El Ferrol, Cadice, dove il direttore Franco aveva ceduto, forse in cambio di dollari, porzioni di territorio per insediamenti bellici. Attrezzature erano presenti inoltre in Tunisia, Libia, Egitto e in Algeria, che fino al 1962 sarà considerata territorio francese a tutti gli effetti. Altri paesi formalmente estranei al trattato erano la Grecia e la Turchia, i cui territori pululavano comunque, non meno degli altri, di basi e infrastrutture americane, frutto di accordi bilaterali oppure di nessun accordo scritto, ma di semplici gentlemen's agreements, come la giurisprudenza definisce le intese di fatto. In ogni caso, Grecia e Turchia fecero presto a liberare gli alleati da qualunque imbarazzo. Il 18 febbraio del 52 entrarono a far parte anche loro della NATO e i confini dell'AFSO si allargarono ufficialmente a tutto il Mediterraneo orientale, nonché ai territori dei due nuovi stati membri. Senza perdere tempo, l'8 settembre dello stesso anno fu attivato un nuovo comando di terra, il Lone Sud Est, con sede a Smir, in Turchia. La sua competenza si estendeva dal Caucaso alla costa ovest della Grecia. Ovviamente anche questo quartier generale fu subordinato a Napoli, così come fu subordinato a Napoli quello istituito subito dopo a Tessalonica, in Grecia, in maniera da stringere l'Unione Sovietica in una vera morsa di controlli e, all'occorrenza, di repliche militari. Napoli divenne insomma una specie di caput mundi della Guerra Fredda, uno dei principali terminali del sistema difensivo dell'intero Occidente, il luogo dove venivano annodati una quantità incalcolabile di fili che partivano dai siti più disparati di un'area geografica vastissima, confinante in più punti direttamente con l'Unione Sovietica. Si tratta di pagine che devono ancora essere scritte. Non c'è dubbio che le più remunerative installazioni di informazione e controllo elettronico furono collocate dagli americani proprio in Grecia e in Turchia, ma soprattutto sul territorio di quest'ultima, riuscendo a captare e decriptare comunicazioni interne sovietiche di interesse politico e militare. Sinop sul Mar Nero, Belbasi vicino Ankara, Diyarbakir a occidente del lago di Van nella Turchia sudorientale, Karamursel sulle rive del Mar di Marmara dove era possibile controllare il passaggio delle navi sovietiche. Questi furono tra i maggiori centri di ascolto che permisero di attribuire alla Turchia l'etichetta di grande orecchio dell'Alleanza Atlantica. Non tutte queste basi e infrastrutture furono comunque necessariamente istituzioni NATO. In tal caso sarebbero dovute restare sotto la giurisdizione e il comando del paese territorialmente impegnato, in quanto il modello giuridico con il quale fu concepito il Trattato Atlantico non prevedeva trasferimenti di sovranità statale a enti sovranazionali in materia di difesa. Prendiamo l'Italia, gli americani non avrebbero potuto svolgervi funzioni operative in proprio, utilizzando le basi come il porto di Napoli, se non a una condizione, quella di stipulare un accordo bilaterale con l'Italia, acquisendo un diritto speciale sul territorio italiano, non previsto dal Patto Atlantico. Ecco perché l'accordo quadro del 1949 è stato integrato da numerosi trattati multilaterali e bilaterali, spesso ad incastro e ricchi di clausole segrete. e il governo italiano ne sottoscrisse parecchie di clausole segrete, connesse ad accordi bilaterali e multilaterali stipulati nella cornice del Patto Atlantico. Sono ancora oggi segrete, né è possibile affermare se siano state tutte scritte e in quanto tali destinate prima o poi a venire alla luce oppure no. Prendiamo appunto il porto di Napoli, consegnato di fatto alla Sesta Flotta. È evidente che l'uso dello scalo fu disciplinato da un'intesa con gli americani sui cui contenuti nulla è dato sapere. L'insediamento del comando avvenne nel 1951 con una cerimonia fortemente simbolica. Entrò nel porto di Napoli la nave ammiraglia del comandante in capo della flotta statunitense dell'Atlantico dell'Est e del Mediterraneo, Robert B. Kearney. L'ammiraglia sparò 21 colpi di cannoni ai quali replicò, con altrettanti colpi, una nave italiana. Una bandiera raffigurante il leone alato di San Marco, tuttora simbolo del quartier generale, venne issata su un pennone della Mount Olympus, mentre Kearney reggeva con voce salda la lettera di investitura rilasciatagli da Eisenhower. Tutto qui. La FSOT era nata, aveva una patria, sia pure per il momento solamente galleggiante. Non tarderà a sbarcare in terraferma, a comandarla resterà un ammiraglio, tanto per ribadire che è il porto il vero oggetto del desiderio. Ma da quanto tempo il destino di Napoli era già segnato? Probabilmente sin da prima della fine della guerra, quando gli alleati ebbero modo di servirsi della città e del suo immenso golfo come centro di raccolta e di smistamento delle loro risorse belliche destinate al fronte italiano. A Napoli non c'è nessuno che, avendo vissuto quei tempi, non ricordi soprattutto nei primi mesi del 44, lo spettacolo dell'immensa baia pullulante di natanti di tutte le dimensioni, navi a perdita d'occhio per miglia e miglia davanti all'anfiteatro portuale, quasi un'unica piattaforma d'acciaio tra Capri e il Maschio Angioino. Del resto l'Alleanza Atlantica era, se non un fatto compiuto, un appuntamento già fissato. Dietro il trasparente velo di una concordia resa obbligatoria dalla guerra contro un comune nemico, era chiaramente visibile la mappa degli insanabili contrasti tra mondo occidentale e mondo orientale. Nessuno si meraviglia perciò se generali e ammiragli meditavano già le mosse della partita successiva prima ancora di terminare quella in corso. Quando nel 1951 Kearney fu nominato comandante del quartier generale delle forze alleate del Sud Europa, dovette indicare il luogo nel quale collocarsi con i suoi uomini e le sue attrezzature. Quella di Napoli fu una scelta ovvia. Non ci sono dubbi che a decidere fu Kearney, naturalmente insieme ad Eisenhower. Questo però non fu detto. Fu detto esattamente il contrario, e cioè che la scelta della sede toccava di rigore alle autorità italiane. Lo affermò il portavoce di Eisenhower. Il giorno dopo, infatti, Kearney era a Roma per avere colloqui con i ministri degli esteri e della difesa italiani, nonché con il presidente del Consiglio De Gasperi. Non pronunciò una sola parola sul luogo destinato ad ospitare il quartier generale, ma da fonti statunitensi i giornali italiani appresero tutto quello che c'era da apprendere. Vale la pena di citare la nota di un giornale dell'epoca. L'ammiraglio americano non ha ancora fissato quale sarà la sua sede in Italia e molto probabilmente si riserva di farlo dopo i colloqui con le autorità italiane, le quali avranno il compito di consigliarlo sulla base di considerazioni inerenti alle condizioni dell'ordine pubblico in Italia. Molto probabilmente la città prescelta sarà Napoli. Kearney rilasciò poi un'intervista nel 52 all'Europeo in cui dichiarò che nel 48, quando pareva che le elezioni italiane potessero terminare in una guerra civile, decise di far partire una nave per il Mediterraneo carica di armi leggeri per sedare una possibile rivolta. Ordine pubblico, Napoli, colloqui riservati. Sarà dato mai conoscere i prezzi pagati dalla nostra città alle dure regole della guerra fredda? quanto è importante Napoli per la sicurezza dell'Occidente. Generali, ammiragli, uomini politici, servizi segreti, giornali fecero tutti il loro mestiere e noi napoletani ci siamo bendati gli occhi e ancora oggi diciamo che nulla accadde. Termine del secondo conflitto mondiale, la situazione delle città italiane era drammatica, soprattutto nel sud Italia. Urgeva un programma di ricostruzione fisica, economica e sociale e per la città di Napoli si prospettava uno sviluppo incentrato sullo scalo marittimo, la cui ricostruzione avrebbe portato ad uno sviluppo industriale, commerciale e turistico. Il porto era stato individuato dall'amministrazione post-fascista come il punto di partenza di una rinascita, ma gli eventi che stiamo raccontando non resero possibile questo progetto. team. A questo punto della storia non posso non citare uno dei più grandi sfruttatori della città di Napoli, Achille Lauro, ricordato spesso per il grande contributo alla speculazione edilizia cittadina. O comandante fu la testa di legno degli americani in città. Nominato nel 1938 consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dopo la liberazione di Napoli nel 1943 venne arrestato dagli alleati anglo-americani e condotto nel campo di prigionia a Padula. Accusato di profitti di regime e illecito arricchimento, venne assolto da ogni accusa nel settembre del 1945. Durante la prigionia fu in contatto con gli americani, che individuarono nella sua persona la figura ideale che potesse gestire la città di Napoli. L'armatore fu investito della benevolenza degli americani e non solo, fu senatore e deputato della Repubblica Italiana e nel 1947 assicurò ben 33 voti per la fiducia al governo De Gasperi. È in quell'occasione che si saldano i rapporti tra Lauro e la DC, per poi continuare in operazioni come la cessione al Banco di Napoli e il controllo del Mattino, del Corriere di Napoli, per avere in cambio la gestione del Roma. Nel 1952 divenne sindaco di Napoli ed, essendo un armatore, avrebbe avuto tutto l'interesse a promuovere lo sviluppo commerciale del porto della città, ma non lo fece, rispettando le direttive del Patto Atlantico. Se qualche nave di sua proprietà aveva bisogno di riparazioni, veniva spedita in altri porti, come Genova o Livorno. La storia di Napoli del dopoguerra è la storia di una nuova colonizzazione, innanzitutto militare, ma la struttura di potere coloniale creano anche nuove gerarchie sociali ed economiche e dunque anche nuove esistenze. In una città dove un immenso muro divide le strade e le piazze dal loro sbocco sul mare, come è successo a Napoli, a Piazza Mercato ed in parte succede ancora, la situazione sociale diventa esplosiva. Gli americani lo sapevano bene ed usarono il contrabbando per tenere a bada i napoletani. Sin dal loro arrivo nel 1943, gli alleati avevano trasformato il contrabbando nella vera maschera stessa di Napoli, scatenando nella città la sua antica vocazione coloniale. Il contrabbando l'aveva insieme sfamata e moralmente debilitata, ma la maschera sarebbe dovuta prima o poi cadere, ad abbassanuttata, se non che non cadde affatto, e quella malattia chiamata contrabbando conobbe una forma di cronicizzazione con la quale la metropoli nel suo insieme fu chiamata a fare i conti. Non si trattava più solo di sigarette, quelle costituivano ormai l'ultimo anello di una catena che si ramificava nei più disparati settori merceologici, liquori, profumi, capi di vestiario, anche di lusso, i primi esemplari del miracolo elettronico, prodotti alimentari in scatola e quant'altro il governo americano riteneva di dover inviare ai propri fratelli separati da Napoli. Dopo la partenza delle truppe di occupazione fu proprio la NATO il nuovo serbatoio di alimentazione del contrabbando, libera di importare da USA tutti i beni possibili e immaginabili, senza alcun vincolo doganale né controlli di alcuna natura da parte delle autorità italiane. Napoli, inoltre, divenuta per effetto di uno dei tanti accordi bilaterali base logistica della Sesta Flotta, pululava di uffici e depositi USA sparsi qua e là, carichi di ogni ben di Dio. Ma come ha fatto Napoli a dimenticare questo vero e proprio assedio militare, a non raccontare i soprusi delle ronde dei Marines biancovestiti con i manganelli che spesso e volentieri si staccavano dal cinturone, a negare l'esistenza di ritrovi e club specializzati in ciurmi affamati di emozioni forti, così infimi da effondere anche all'esterno un perenne odore di rancido, birra, vino, sesso, disinfettanti? Come ha fatto questa città a non vedere che il comando NATO si strutturava subito come una città nella città, presenza insieme felpata, rumorosa, nascosta ed esibita, anche perché le famiglie degli addetti raggiunsero e superarono in un paio d'anni le 6.000 unità. Ma si tratta di una stima probabilmente inferiore al vero. Il quartier generale inizialmente occupava una palazzina di Via Orazio, ma dopo qualche anno si insedia in un immenso complesso di proprietà della Fondazione del Banco di Napoli a Bagnoli. 400.000 metri quadrati, edifici previsti fino a un massimo di 374.000 metri cubici, di cui 30.000 già costruiti, 77.000 metri quadrati di palazzi e di viali, una rete stradale di 4 km, alte mura di cinta, 2 anni di frenetico lavoro di ristrutturazione i cui costi ricadono sulle spalle degli italiani, 1/3 a carico della NATO e 2/3 a carico del nostro governo. Ma tutto quando pigliamo rindi, ma fa male la Slovenia, Romania, ma fa male Montenegro. Londra a Dalmazia, ma fa male la Macedonia, che ci mi pure un cocca lì. La Cina è vicina, l'Italia che è lontana, comunque stai in sotto in gozzo. Io telefono, chiama Obama, chiama Sarkozy, chiama Merkel, Gaita, Angelina. Gli ufficiali di grado superiore non abbandonarono le loro case di Posillipo, la collina diventò tutto un sussurrare yankee, mentre una città nella città veniva costruita. Ancora oggi hanno i loro ospedali, le loro chiese, le loro scuole, i loro spacci, le loro socialità chiuse a riccio. Napoli è soltanto un lebo in inferno contiguo al loro paradiso, quel che conta è non sfiorarla neppure, salvo che a bordo della Cadillac con i finestrini sollevati. Perfino i Marines della sesta flotta sono diffidati dall'addentrarsi nell'inferno. Una lettera circolare, distribuita al momento della libera uscita, li avverte di tenersi alla larga da una gran quantità di zone dichiarate out of bound. A detta del documento, si tratta di quartieri dove pullulano edifici impestati e per niente igienici, dove è diffuso malanimo verso il personale militare americano, dove sono presenti numerose case di tolleranza da considerare comunque tutte out of bound, dovunque si trovino. E per divertirsi? Nessun timore, basta andare al Grottino, un locale notturno assolutamente raccomandabile. Per raggiungerlo dovete girare intorno alle zone degli out of bound percorrendo via Roma, senza però addentrarvi in alcun vicolo a ovest di esse. Oltre al Grottino ci sono altri locali, tutti inseriti nella guida di Napoli a disposizione di ciascun marine. Non è un documento del 44, è di 10 anni dopo. A Napoli la guerra non è mai finita. Ma dice una cosa sorda. Avessi ancora in tasca le mie 200 lire, io comprerei un ghiacciolo e me ne andrei al mare. Se avessi ancora intatta la mia malinconia, non mi accontenterei anche di una bugia. Basta, me ne vado. La capisci, non c'è mai stata. Ma mi consenta, sono il cavaliere Venuto. La buona. La Grecia si può salvare solo se tutti i greci si giungono da casa e non respirano giù. Poi la Spagna non deve uscire da casa. È superato la comunità. C'è stato. Non sempre chi si traveste da gigante riesce a reggere il peso dei suoi ornamenti. Eravamo l'occhio dell'Alleanza Atlantica, spalancato su tutta l'area del Mediterraneo, sino alla Grecia e alla Turchia, sino ai confini con l'Unione Sovietica. Tutto faceva capo a noi. Non c'era una nave che solcasse il grande bacino che finisce a Gibilterra e comincia dallo stretto dei Dardanelli che non pendesse dalle nostre labbra. Quanto è grande il Mediterraneo? 2.500.000 metri quadrati. Praticamente le avevamo tutti in pugno noi. Per l'esattezza ce le aveva in pugno la nostra antica Balneolum, una volta felice plaga bagnata da una sorgente di acque termominerali. La grande conca di cui Bagnoli costituisce il lembo più orientale, immediatamente sotto la collina di Posillipo, riesce ancora oggi, pur degradata com'è, a trasmettere quasi un senso di sgomento per la sua cristallina bellezza. Il comando NATO sorgeva immediatamente a ridosso dell'ex acciaieria Italsider. Avrete sentito nominare l'ex base NATO perché i cittadini della zona Flegrea hanno tentato di occuparla in risposta alle esigenze abitative, in un territorio dove il bradisismo fa tanta paura. Le persone riconoscono ancora quel posto come uno spazio sottratto alla città. Oggi, infatti, il comando NATO si trova al Lago Patria, l'antica Liternum, il luogo di riposo di Scipione l'Africano. Si è spostato al Lago Patria dal 2016 e naturalmente sono stati usati per la sua realizzazione fondi regionali. Sarà pur vero che dagli anni 70 il processo di allargamento della NATO, quintessenza dell'organizzazione atlantica, ha portato a una dislocazione dei vari comandi di cui parlavo. Ad esempio la sesta flotta fu spostata da Napoli a Santa Rosa. Sarà pur vero che l'attuale amministrazione statunitense minaccia di voler distruggere la NATO. Sarà pur vero che nella base di Lago Patria c'è solo un ammasso di ferraglia inutile, ma è altrettanto vero che da Lago Patria giunge all'Organizzazione Atlantica ancora un grandissimo contributo per le missioni in Medio Oriente e nel Mediterraneo. E non è un caso che il nostro governo è pronto a destinare il 2% del PIL nazionale per le spese militari NATO. L'Occidente e la sua organizzazione militare è sempre in crescita, è sempre in guerra. Ma io dico che sarebbe bellissimo se la NATO si dissolvesse e lasciasse finalmente in pace i nostri territori, perché l'unico modo per far finire la guerra è smetterla di farla. Sempre riguardo al percorso sulla schiavitù in età classica, stasera, oggi, tratteremo la geopolitica, un termine moderno che definisce, tuttavia, scene già rappresentate nell'antichità, con la nascita delle polis, dei regni monarchici, delle prime forme di Stato. Nello specifico, ci caleremo nella guerra del Peloponneso, che oppose fra il 431 a.C. e il 404 a.C. la Lega Peloponnesiana, raccolta intorno a Sparta, alla Lega Delio Attica, raccolta intorno ad Atene, in competizione per il predominio sulle altre polis dell'antica Grecia. Una guerra che si espande da Grecia, Sicilia, Medio Oriente e varie isole del Mediterraneo. Ci serviremo di Tucidide, storico e militare ateniese, vissuto nel periodo del conflitto, che ne fa una cronaca raccolta in 8 libri, la guerra del Peloponneso, appunto. Un resoconto profondo, analitico e cronologico del conflitto. A detta di molti addetti ai lavori, passati e contemporanei, Tucidide è noto per essere uno dei primi storici a narrare la storia secondo parametri esclusivamente umani, senza interventi di dei ed eroi calati chissà da dove. Guerra del Peloponneso. Le cause del conflitto, dice Tucidide, partono dalla volontà degli ateniesi, protratta nel tempo, di affermare la propria egemonia sui greci. All'ennesima provocazione in cui Atene proibisce ad una città della Lega Spartana, Megara, di commerciare con una città sotto la sua influenza, Sparta risponde. Yeah. La guerra militare sembra che, sempre a detta degli storici e dello stesso Tucidide, sia stata anticipata da quella economica, fatta da decreti e sanzioni emanati da Atene verso piccole polis sotto la sua influenza. In pratica Sparta risponde per non perdere terreno. In ogni modo, a parte le ragioni reali o presunte che avrebbero scatenato il conflitto, il dialogo scritto da Tucidide, che andiamo a citare, ipotizza, non essendo presente alla scena, lo scontro verbale tra ambasciatori ateniesi e governanti di Meli. Un dialogo che rivela in pratica il vero senso del potere, oltre le parole, che rappresenta un'acuta riflessione su cosa rimane della giustizia, della morale e del diritto in situazioni di conflitto. Nelle operazioni militari in corso, Atene pretende che la città di Meli, un'isola greca del mare Egeo, si schieri al suo fianco contro Sparta e i suoi alleati. Alle pretese degli ambasciatori ateniesi, i Meli rispondono. E non accettereste che noi, anziché nemici, siamo vostri amici, senza però combattere al fianco di nessuno degli schieramenti? Ateniesi. No, perché la vostra ostilità non ci danneggia quanto la vostra amicizia, la quale apparirebbe come un segno della nostra debolezza, mentre il vostro odio sarebbe per i sudditi la prova della nostra forza. Terminati gli argomenti razionali, gli ambasciatori di Meli, anche se assediati ed esausti, giocano l'ultima carta. Gli dèi, la provvidenza, ci salveranno dagli invasori. In fondo, noi siamo i giusti, resisteremo. A sto punto Atene risponde. Quanto al favore degli dèi, neanche noi saremo da meno, ne siamo persuasi, giacché quello che facciamo, quello che pretendiamo, non si pone affatto fuori dalla concezione che gli uomini hanno del mondo divino né della reciproca loro disposizione. Non solo tra gli uomini, come è ben noto, ma per quanto se ne sa, anche tra gli dèi. Un necessario impulso spinge a dominare su colui che puoi sopraffare. Questa legge non l'abbiamo stabilita noi, né siamo stati noi i primi a valercene. Abbiamo ricevuta che già c'era e a nostra volta la consegneremo a chi verrà dopo e avrà valore eterno. E sappiamo bene che chiunque altro, ed anche voi, se vi trovaste a disporre di una forza pari alla nostra, vi comportereste così. Ecco perché, per quel che riguarda il divino, abbiamo motivo di ritenere che non verrà neanche a noi. Luciano Canfora, storico contemporaneo, tuttavia smentisce il dialogo di Tucidide affermando che Melo era da tempo alleata di Atene, quindi la richiesta di neutralità risultava illegittima. Una cosa è la neutralità riconosciuta come tale, un'altra cosa è una defezione da un'alleanza. A confermo della tesi, lo storico cita un'epigrafe su lastre di marmo ritrovata nell'acropoli di Atene, in cui si elencano i tributi versati dagli alleati di Atene. Melo è tra questi. L'isola, tuttavia, aggiunge lo storico, aveva già iniziato da tempo a non pagare tributi ad Atene, tirandosi di fatto fuori dall'alleanza. Alleanza uguale impero, commenta Canfora. Ma nel 460 a.C., in previsione della guerra contro Sparta e i suoi alleati, che si scatenerà a breve, la guida suprema dell'alleanza decide di andare a riprendersi l'isola per costringerla a rientrare nell'egemonia ateniese. Il finale in ogni modo è più che scontato. Gli ateniesi entrano in città, trucidano e schiavizzano l'intera popolazione. Quelli uccisero quanti Meli in età militare poterono catturare. Fecero schiavi le donne e i bambini, il territorio lo abitarono loro, inviando 500 coloni. Oh, Tucidide è convinto che la sua opera debba rimanere un'acquisizione per il futuro, ma non nel senso di un ammaestramento morale, ma per riconoscere il meccanismo delle forze che producono gli avvenimenti umani. Il nostro interesse per la storia in pratica parte da qui, per capire e decifrare processi da sempre insiti nei poteri, monarchici, democratici, oligarchici, eccetera, eccetera. Passano i secoli. La geopolitica del Mediterraneo passa nelle mani di Roma. Facciamo parlare Ranuccio Bianchi Bandinelli, esimio archeologo, storico e accademico. La società romana partiva da orizzonti parsimoniosi, ma nel giro di una generazione andò poi effettuandosi a Roma la concentrazione di capitali più intensa che la storia ricordi. Essa rimane superiore in confronto a quella operata dai maggiori stati capitalistici moderni, perché corrispose praticamente alla concentrazione di tutta la ricchezza liquida distribuita a quel tempo nel bacino del Mediterraneo. Quindi si intendono coste africane, egiziane, arabe, turche, greche, italiane, francesi e spagnole. Roma governa, nascono le province. Il termine provincia, dopo gli ampliamenti del territorio della Repubblica tra la fine del III e il II secolo a.C., designava il territorio sottomesso sul quale un magistrato appositamente eletto, il pretore, esercitava i propri poteri in nome di Roma. Il diverso modo di gestire le province dell'impero era in sintonia con il famoso detto latino «Dividi ed impera», attribuito a Filippo il Macedone nel III secolo a.C., con cui si vuole significare che la divisione, la rivalità, la discordia dei popoli soggetti giova a chi vuole dominarli. La condizione degli abitanti delle province, infatti, variavano a secondo delle diverse condizioni di partenza. Nei casi in cui l'espansione territoriale era avvenuta in via pacifica, solitamente si rispettavano le precedenti gerarchie governative, come per i regni di Pergamo, Asia Minore. Il regnante Attilo III, in punto di morte nel 133 a.C., arriva perfino a regalarlo, il proprio regno, ai romani. Poi abbiamo la Cirenaica in Libia, la Bitinia, zona nord-occidentale dell'Asia Minore, e l'Egitto. Nel caso della conquista militare e della resistenza della popolazione, si attivava invece il massacro e la deportazione di schiavi. In pratica, la differenziazione dei rapporti delle varie province con Roma, tasse, obbligo militare, eccetera, dipendeva da questo. Solitamente si stipulavano patti con le élite locali, concedendo loro, in cambio dell'asservimento del proprio popolo, privilegi e protezioni da scomode sommosse interne, come il caso antico dell'Armenia, stato cuscinetto tra l'impero romano e quello dei Parti. Stato cuscinetto, mi ricorda qualcosa. Tra i privilegi accordati per saggire il dividi ed impera, solitamente c'era anche la cittadinanza romana. Cosa non da poco. In caso di problemi con le istituzioni o con i potenti di turno, faceva la differenza. San Paolo, preso dalle maglie della persecuzione neroniana, infatti, non venne flagellato come gli altri cristiani, ma portato a Roma e decapitato. Una pena benevola, onorevole, riservata ai cittadini dell'impero. una cittadinanza che poteva comunque essere oggetto di revoca, come accadde per gli abitanti di Arezzo e Volterra. Ne furono privati da Silla a seguito di una legge, la Les Licinia Mucia, che negava la cittadinanza agli italici ed ai latini. Hanno capito che qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. Quanti sbagli, quanti errori, quante guerre e distruzioni, ma finalmente una nuova era comincerà. Senza servi né padroni, senza guardie d'assassini, d'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità. La discordia tra i popoli soggetti, quindi. Alessandro Barbero racconta. Per le tribù germaniche rimaste al di là del Reno, Tacito, storico, Romani primo e secondo dopo Cristo, osserva che quando queste tribù si ribellavano, aggredivano volentieri gli Ubi, perché quel popolo di origine germanica rinnegava la patria, si faceva chiamare Agrippinesi. I privilegi riconosciuti alla loro città suscitavano la gelosia degli altri, i quali chiedevano o che fosse sede comune a tutti i germani o che fosse distrutta e gli Ubi dispersi. In questo caso, insomma, il permesso accordato selettivamente a una singola tribù di stanziarsi sulla riva romana del Reno era chiaramente percepito dalle popolazioni locali come una misura politica e discriminatoria, che tuttavia dal punto di vista delle autorità romane aveva pienamente sortito il suo effetto. Chiaramente non va sempre liscio. Tra i popoli sottomessi qualcuno reagisce. Il discorso che lo storico e politico Tacito fa pronunciare a Calgago, capo dei Caledoni, una tribù di britanniche nell'83 d.C., durante il regno di Domiziano, guidò una rivolta contro i romani, ci mostra, al contrario della resa, la resistenza. Egli legge gli eventi dal punto di vista di colui che sa che dovrà sottomettersi e che vede nell'operato dei romani conquistatori l'atto di un'aggressione imperialistica. Quando ripenso alle cause della guerra e alla terribile situazione in cui siamo, nutro la grande speranza che questo giorno, che vi vede concordi, segni per tutta la Britannia l'inizio della libertà. Sì, perché per voi tutti qui uniti, che non sapete cosa significa servitù, non c'è altra terra oltre questa e neanche il mare è sicuro, da quando abbiamo addosso la flotta romana. Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di devastazione, vanno a frugare anche il mare. Avidi se il nemico è ricco, arroganti se povero, gente che nell'Oriente, nell'Occidente possono saziare. Loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e falsi lo chiamano impero.

nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. La storia, sono in molti a dire che non insegna niente, compresi molti storici. Certo, se la racconti come un'eterna apologia del potere, servirà solo a chi lo detiene, il potere. Prova a guardarla con gli occhi dei vinti, dei miserabili, di quelli maciullati dalle logiche del potere in ogni epoca e luogo. Concludiamo infatti con una nota di Federico Nietzsche sull'utilità e il danno della storia per la vita. Se la considerazione monumentale del passato domina sulle altre forme di considerazione, voglio dire sull'antiquaria e sulla critica, lo stesso passato ne soffre danno. Intere, grandi parti di esse vengono dimenticate, spregiate e scorrono via come un grigio e ininterrotto flusso, mentre emergono come isole solo singoli fatti abbelliti. Se l'uomo che vuol creare cose grandi ha in genere bisogno del passato, se ne impossessa per mezzo della storia monumentale. Chi invece ama perseverare nel tradizionale in ciò che è venerato da gran tempo, coltiva il passato storico antiquario. È solo colui che al quale una sofferenza presente opprime il petto e che ad ogni costo vuol gettare via il peso da sé, ha bisogno della storia critica, vale a dire di quella che giudica e condanna. A sto punto una domanda per voi, fatta da John Zerzan nel Crepuscolo delle macchine. Nella città odierna il monumentalismo delle origini è ancora presente e sottolineato con lo stesso effetto sminuente e depotenziante per l'individuo? A voi la risposta. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. E ancora in diretta da Radio Neanderthal per il Ponte Radio, noi volevamo ricordarvi di utilizzare la chat che trovate sul nostro blog radioneanderthal.noblogs.org per scriverci le vostre impressioni su questa trasmissione, che continua con altri due contributi delle trasmissioni che animano la regia di Radio Neanderthal, e quindi andiamo avanti con La Ghigliottina e poi Lo Stato Ammala. Buon ascolto. Thank you. parliamo di guerra, ovviamente non si parla solamente di uno scontro armato tra stati o comunque fazioni, ma di un assetto degli stati che comprende anche la propaganda, la mobilitazione economica. Questo è un aspetto da non dimenticarsi affatto, in particolare durante questi giorni in cui sentiamo parlare di riarmo europeo e i media lo presentano, diciamo, come conseguenza dell'abbandono da parte dell'alleato atlantico, ovvero degli Stati Uniti. Tenere bene a mente il concetto della propaganda di guerra è necessario proprio perché appunto subito dopo le dichiarazioni di Trump, diciamo, di volersi un pochino disinteressare della vicenda europea, subito tutti i media hanno urlato appunto all'abbandono e hanno descritto la decisione, diciamo, degli Stati Uniti come un immediato pericolo per la sicurezza europea nei confronti della Russia. Questo fa particolarmente specie perché proprio la presenza massiccia degli Stati Uniti e della NATO sui territori europei, e in particolare italiani, sono stati invece vissuti sin dal loro inizio come una vera e propria occupazione militare. Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington il 4 aprile del 1949 ed entrò in vigore il 24 agosto dello stesso anno. Presentato, diciamo, come un'alleanza difensiva, vabbè, la storia già ci racconta che gli effetti che ebbe nell'assetto, diciamo, di quella che da lì in poi venne chiamata Guerra Fredda, fu in realtà di alti e bassi, comunque di continua soffiare sul fuoco dell'escalation. Però, come dire, non fu un trattato accolto in maniera neutra, infatti subito dopo già un movimento cominciò a contestare l'entrata dell'Italia nel patto atlantico, in particolare durante una manifestazione contro l'adesione dell'Italia della NATO. Ricordiamo che a Terni il 17 marzo del 1949 appunto venne ucciso da parte della polizia di Scelba un operaio comunista di 21 anni, Luigi Trastulli. Infatti la polizia aveva fermato sei giovani sorpresi ad affiggere dei manifesti non autorizzati contro la NATO. A quel punto, insomma, fu indetta una manifestazione in una piazza di Terni. Gli operai stavano uscendo dalla fabbrica e, insomma, vabbè, ci ascoltiamo direttamente una testimonianza con le parole di un operaio dell'epoca. Quando questi operai sono usciti dalla fabbrica, sono usciti a scaglioni perché fuori c'erano le camionette della polizia. Uscito un gruppo, usciti due gruppi, usciti tre gruppi, certo momento c'è stata la sparatoria. Sulla sparatoria, mentre che scappava sto disgraziato, sto ragazzo, 21 anni, è stato falciato da una raffica di mitra che poi ha falciato tutto il muro. Però è stato un'arma a doppio taglio, perché quando si è visto il sangue e quando Petterni... uomini come noi, come altra gente, ha gridato, hanno ammazzato gli operai quando hanno sentito gli spari. Un po' vivo ancora l'eco degli spari, della guerra, perché Terni martoriata dai bombardamenti come era stata. La gente non ha capito più niente, dalle finestre. Chi gli lanciava, le donne addirittura, piatti, patelli, quando passavano le camionette della polizia. Ma dico, sembrava il giorno del giudizio. Quando abbiamo sfilato per Viale Brin per andare verso la piazza, era cose dall'altro mondo, ma addirittura la gente per Corso d'Acido, la via nuova di Corso d'Acido che porta in piazza, centinaia di persone sui tetti, pronti già a tirare le tegole alla polizia. Ma era una cosa tremenda. una cosa tremenda, pompe d'acqua, legni per fare barricate per non va perché dice che da Roma dovevano affluire altri rinforzi, cantieri, cantieri votati da legni messi lì per non va, insomma è stato un momento de... E è andata avanti questa lotta, è riuscita fino al punto di andare alla mediazione. Ecco, questo è il fatto, perché si capisce, per riuscire quella lotta doveva scoppiare la rivoluzione. Certo, l'Italia nel 1949 è appena uscita e martoriata dalla guerra, per cui è immediata, diciamo, l'opposizione ha solo l'idea di un'altra guerra. Nell'aprile sempre del 1949 nasce il Movimento dei Partigiani per la Pace, insomma un movimento internazionale che raggruppa diversi rappresentanti, in particolare dei partiti comunisti delle maggiori nazioni, non solamente europee, ci saranno poi insomma più di 2000 delegati di 72 paesi, comunque tutti per opporsi al patto atlantico, ma non solo. Diciamo, la cosa interessante che parte dai movimenti pacifisti, da questo movimento pacifista, ma che poi si espanderà a tutte le fasce della popolazione e soprattutto perderà i connotati, diciamo, unicamente di pacifismo per mettere a critica l'assetto stesso dello Stato in quanto necessariamente motore di guerra, e quindi diventeranno movimenti antimilitaristi che si opporranno anche poi, avranno la lungimiranza di, come vedremo dopo, di opporsi anche all'utilizzo del nucleare civile in quanto, diciamo, estensione stessa del nucleare militare. Ma diciamo, la cosa interessante anche che parte da questo movimento per espandersi, come dicevo prima, è il fatto di criticare anche lo stesso piano Marshall, insomma un piano di delle misure di sostegno economico che gli Stati Uniti versarono nelle casse dei paesi europei, che insomma già si capiva all'epoca che di fatto non avrebbero salvato le economie europee dalla crisi post bellica, perché da quella crisi già tra l'altro stavano uscendo, ma di fatto le avrebbero instradate verso un tipo di economia capitalista legata a doppia mandata anche con l'economia degli Stati Uniti, e che già all'epoca erano bollate di essere utilizzate solamente per asservire politicamente i paesi che vi accedevano. Namankariya de dado Intanto è il 1950 e già dai primi mesi di questo anno, a fronte dell'adesione al Patto Atlantico del mondo occidentale, uno dei primi aspetti in cui si concretizza la lotta per la pace in Europa, comunque contro la guerra, è la protesta contro lo sbarco delle armi americane destinate ai paesi della NATO. Infatti in vari porti di Europa, da Genova ad Amsterdam, da Rotterdam ad Anvers, Amburgo, i portuali rifiutano lo sbarco delle armi e ovviamente il governo italiano risponde con misure repressive quali il divieto di manifestazione, di tenere comizi e addirittura arriva in alcuni casi a vietare addirittura le raccolte firme contro la guerra. Nel 1951 gli Stati Uniti e l'Italia firmano un primo accordo di cooperazione militare per cui gli Stati Uniti avrebbero rimesso in sesto il sistema di comunicazione militare in tutta Italia in cambio di circa 1000 ettari di terreno tra Livorno e Pisa da dedicare a una base militare e la concessione a operare militarmente con proprie truppe in Italia. Il 15 novembre dell'anno successivo, al 1952, quei terreni divennero la base militare statunitense di Camp Derby, che se non sbaglio è appunto la prima impiantata, ma la prima di una lunga serie. Tutte basi che, insomma, buona parte, una cinquantina, ancora esistono e che non sono affatto state recepite in maniera pacifica, diciamo, dai cittadini italiani. Adesso vedremo. Quindi il movimento contro la guerra italiano non si concentrò solamente appunto all'opposizione alle basi militari impiantate sul proprio territorio, ma anche ai grandi eventi che stavano attraversando la storia del mondo. La crisi in Corea, che come dire, aspirava alla riunificazione, che poi ha fornito l'alibi a Truman per far salire la tensione e il riarmo, la cosiddetta dottrina Truman, diciamo, di contenere il nemico, che invece ha causato una notevole escalation, ma anche la costruzione del muro di Berlino, la crisi dei missili a Cuba, la nascita del patto di Varsavia opposto al patto atlantico, poi anche il regime dei colonnelli in Grecia, il golpe di Pinochet, la guerra in Vietnam, mettendo in campo diverse forme di protesta tra le più meno e più radicali. Ke dam bandolo buru, ki dam del dohore, wade bago bandolo buru, luto wor Il filo rosso che legava tutte queste battaglie era quello della lotta all'imperialismo, un imperialismo degli Stati Uniti che si sentiva col fiato sul collo nei paesi europei e mediterranei, ma in tutto il mondo, e di cui appunto la presenza materialmente visibile in Europa era vissuta come un'occupazione militare, come una sorta di avamposto sul proprio territorio, quindi vicino alla propria casa, di un imperialismo predatore. Ed è appunto importante ricordare questa opposizione proprio in un periodo in cui invece il ritiro di queste truppe di occupazione, o almeno la sola dichiarazione del ritiro, della loro diminuzione, viene invece spacciata dai media nostrani come un abbandono al nostro destino. Ricordiamo in particolare un paio di momenti. Primi anni 80, la base di Comiso in Sicilia fu scelta per la collocazione dei missili cruise, cioè missili a bassa quota, a traiettoria guidata, missili da crociera americani per l'appunto. Nell'83 si può ricordare la battaglia di Comiso, infatti il 6, 7, 8 agosto dello stesso anno un movimento antimilitarista aveva organizzato un campeggio nelle vicinanze dell'ex aeroporto Magliocco e si era dato l'obiettivo di interrompere i lavori della base NATO bloccandone i cancelli. L'8 agosto, sin dalle prime luci dell'alba, il campeggio comincia ad animarsi e le persone poco a poco si radunano davanti ai diversi cancelli d'ingresso della base militare. Quando spunta il sole, davanti alle entrate vi sono ormai diverse centinaia di manifestanti. Visto il blocco davanti ai cancelli che impediva l'ingresso degli operai per portare avanti i lavori, la polizia carica i manifestanti, insomma ne segue un parapiglia che dura svariate ore. Diciamo al seguito di questo purtroppo i lavori continuano ma sicuramente non indisturbati, ed è interessante in questo caso anche il rilancio non solo all'opposizione alla NATO ma anche all'utilizzo del nucleare, sia esso militare o cosiddetto civile, anche se poi, come dicevo in apertura, sono come dire l'uno l'estensione dell'altro. Yo go to the day, so sarah who did. bodu ibe kani e kerta mama pada bago bando do buru donde kapula Ovi dui da iye unude, soti kosa ifote ire, ala ye kweje yam na bakam, kumare sambare. Ala le nudo le uru, so vadi kamude, so vade bako bandu lo buru, kuto ore. Interessante il momento, diciamo, in cui si intreccia la lotta al militarismo e la lotta al nucleare, insomma, negli anni, lungo tutti gli anni Ottanta sono tantissime le manifestazioni contro le centrali elettronucleari, da Montalto fino ad arrivare a Matera, Latina, Brasimone, Viadana, Caorso, Trino, Vercellese, anche non solo le manifestazioni ma anche i tentativi di blocco dell'ingresso per fermare il funzionamento di queste centrali e anche gli atti di sabotaggio, di azione diretta. Sono davvero tantissime le occasioni in cui o vengono sabotati tralicci oppure addirittura gruppi, centinaia di compagni e compagni anarchici, punks e autonomi entrano nei cantieri e sabotano e mettono fuori uso le attrezzature e le macchine per l'ampliamento o la costruzione di centrali nucleari o siti legati alle basi statunitensi e le basi NATO. Ricordiamo anche l'importanza del legame tra queste due lotte, perché insomma non lungo tutta la guerra fredda, ma non solo, fino ancora ad oggi, numerose basi statunitensi o NATO hanno ospitato o tuttora ospitano, come la base di Aviano, al loro interno delle testate nucleari, insomma a segnare anche, come dire, l'importanza di un'opposizione più ampia. Quindi insomma, da subito, dal 1949 fino almeno agli anni 90, è stata molto ampia l'opposizione alle basi NATO, allo stesso patto atlantico, alla presenza così massiccia di militari NATO o statunitensi sul territorio italiano ed europeo. Questa lotta è stata anche legata all'opposizione al nucleare, tra virgolette, civile, ma non solo, e tutte queste cose, diciamo, sono da tenere ben a mente oggi, anche per contrastare, come dicevo prima, questo bombardamento mediatico che, diciamo, sfrutta la situazione in Ucraina e le dichiarazioni di Trump per spingere ancora di più l'acceleratore sul riarmo e sul militarismo, e allo stesso tempo che sfrutta la crisi ecologica per far rientrare dalla finestra il nucleare cosiddetto civile, che, come dicevamo, civile non può essere. Il problema delle guerre, per quanto definirlo problema potrebbe sembrare un orrido eufemismo, esiste da sempre e perdurerà finché il mondo che viviamo è un mondo governato da stati. Forse per gli amanti delle riflessioni cosiddette approfondite sembrerà troppo semplice dire ciò che dà il titolo a questo pensetto di Ponte Radio, ovvero che finché esisteranno gli stati con i confini, le guerre saranno inevitabili, e dirsi oggi contro le guerre senza essere intrinsecamente contro l'idea dello Stato stesso è, a mio avviso, talmente parziale che non fa altro che nascondere il problema del potere che va esercitando lo Stato stesso nei confronti dei confinanti meno desiderati. E non solo, a mio avviso, nasconde il problema che lo Stato esercita, ma serve a rafforzare quello che più si preferisce, diciamo, a seconda del colore e dell'interesse politico di parte. Quindi serve a rafforzare uno Stato o l'altro, e mentre dico questo mi sta venendo in mente l'immagine di uno striscione di apertura di un corteo che fu fatto qui in città a Napoli. La partenza era, ci trovavamo a Piazza del Gesù precisamente, a pochi giorni dell'inasprimento del conflitto tra la Russia e l'Ucraina, e insomma su questo striscione c'era scritto né con la Russia né con la NATO. Ecco, questo lo sto citando ora perché per me è un esempio di tifoseria tra stati che non va a centrare, a mio avviso, la questione più importante, e cioè la guerra in sé, che non è certo un'emergenza, non è una fase eccezionale, ma è il risultato di un mondo governato da stati in cui la pace è una specie di inciampo tra una guerra e un'altra. E quindi ho preso in esempio questo scempio di striscione per dirla oggi come ancora la penso, come dicevo anche allora in altri contesti, perché credo che dovremmo, e sto usando il plurale per augurarmi che ci sia ancora un noi collettivo al quale possa riferirmi, e pensare quindi e manifestare contro le guerre, usando il plurale, quindi dicevo contro le guerre, per la libertà di tutti e soprattutto contro ogni sistema di potere. Vorrei ribadire, perché il dubbio che, diciamo, i ragionamenti non sempre escano chiari mi viene, e quindi rimetto l'accento sul fatto che lo Stato senza guerre non potrebbe esistere, perché soprattutto ce ne sono due di guerre che costantemente si alimentano a vicenda, che vengono quindi alimentate ogni giorno. Una è la guerra contro gli oppositori interni, cioè contro chi manifesta in modo radicale contro l'ordine precostituito dello Stato stesso, contro chi non è produttivo, contro chi in sostanza rompe in qualche modo con la pace sociale. L'altra è un'altra guerra, è la guerra che è rivolta all'esterno dei propri confini, che è rivolta verso gli altri stati per questioni di interesse economiche e di equilibrio di potere ed egemonia. Ma in mezzo a tutto questo macello e queste guerre di potere che diciamo si alimentano, come dicevo, a vicenda, ci sono di mezzo delle persone. Loro per esempio li chiamano i civili, queste persone, quando vengono ammazzate così giusto per sbaglio, come se pure queste morti fossero degli inciampi, cioè giusto degli errori di calcolo. Quindi dicevo, ci vanno in mezzo le persone ammazzate per sbaglio, e tutta un'altra serie invece di persone vive che vanno a fare i soldati, cioè vanno a combattere per questa mamma o padre Stato, madre patria come si chiamava una volta. Quando ero soldato, allora sì, che era bella la vita anche per me. 15 mesi senza problemi di casa mia. Quando ero soldato, beato me, mangiavo e bevevo meglio di un re, senza pagare mai una lira di tasca mia. E quelle ragazze, le sole che poi non ti chiedono un matrimonio. Soldato, che bell'età, scoppiamo di vita e di allegria, poi è finita, sono tornato a casa mia. Complesso di colpa, complesso di colpa, complesso di colpa. Il crollo di grandi teatri, il crollo di grandi teatri, il crollo di grandi teatri, complesso di colpa, il crollo di grandi teatri, complesso di colpa, complesso di colpa. Pensare che allora, quando ero via, soffrivo un poco di nostalgia. Quando ero soldato, beato me, la guerra non c'era, adesso c'è, l'han dichiarata, tutti d'accordo contro di me. Quando ero soldato, vivevo tranquillo. Ora sono tanti a bombardare la vita mia. Quindi queste parole dette fin qui fanno chiedere a me stessa, che ci ascolta naturalmente, pure a quelle anime belle e democratiche che poi non sia mai, magari ci ripensassero, e dicevo, quindi mi fa chiedere come si possono fermare queste guerre se non si abbattono tutti gli stati, cioè come si possono fermare le guerre se non si mette in discussione questo ruolo e il significato dello Stato stesso, che evidentemente non si può conservare uguale a se stesso entro i suoi confini se non c'è un conflitto con chi è intorno, altrimenti finirebbe in sé il significato di Stato. E quindi non mi venite però a dire che la questione è utopica, perché se è utopico pensare questo, ugualmente è utopico pensare che con le manifestazioni democratiche tu fermi la guerra. Quindi dicevo, se non ci spingiamo un po' più avanti con l'immaginazione si fa l'errore poi di manifestare copiando nella sostanza i documenti dei pacifisti del Partito Democratico. Non solo, si fa anche l'errore di mettersi a fare un tifo politico e la questione ritorna forse a monte, che ripeto, forse è da affrontare dal punto di vista storico. Proprio perché la storia ci può insegnare tanto, sono andata a cercarmi qualche documento sulla controversa, diciamo, storia dei PID, cioè che erano i proletari in divisa. Il PID fu un'organizzazione nata tra il 1969 e l'inizio del 70 dall'azione combinata di lotta continua e dei collettivi proletari antimilitaristi, che erano poi legati a loro volta ad Avanguardia Operaia. Per orientarmi un attimo sullo spirito che muoveva questa organizzazione, ho cercato quali erano le loro rivendicazioni e ne elenco qualcuna. Il diritto di assemblea e la libertà di diffusione di volantini all'interno delle caserme di giornali politici, cosa ovviamente vietata allora, ma anche oggi. Licenza garantita ogni mese, l'avvicinamento del servizio militare obbligatorio vicino alla città di abitazione, l'aumento dell'indennizzo economico, la soppressione del saluto obbligatorio e di altre forme di autoritarismo nei confronti dei soldati. Quindi in sostanza veniva richiesta la democratizzazione delle forze armate attraverso la soppressione di una serie di leggi e di regolamenti frutto del codice militare apertamente reazionario di epoca fascista e ritenuto anticostituzionale. E dunque, secondo me, è molto illusorio chiedere la democratizzazione di un apparato statale, quindi delle forze armate statali, che sono fondate proprio sulla prevaricazione e il dominio dell'uomo al potere, quindi un uomo graduato, nei confronti di altri uomini sottoposti, giovani leve, che sono gerarchicamente inferiori e sono privati, erano privati in quegli anni soprattutto della facoltà di scelta, in quanto stiamo parlando di un periodo in cui questa leva era obbligatoria. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambi una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava con le stagioni a passo di gela, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sì. sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta chi vede a paura, ed imbracciata all'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. E mi viene in aiuto e ringrazio i compagni che l'hanno prodotto qui ora a marzo 2025 dal Centro di Documentazione Anarchico di Lecco, l'Arrotino, perché proprio nel retro c'è l'invito al sogno, forse è un sogno, forse no, io che sono immancabilmente ancora legata ai sogni, lo condivido e ne prendo una parte. Per ora non so se poi ci sarà tempo, magari più avanti, per affrontare anche il resto, perché loro raccontano, ci dicono com'è la situazione ad oggi in merito al servizio di LEPA in tutta Europa, e paese per paese ci dicono com'è la situazione. Per ora, per la questione di tempo, vado al pezzetto che racconta dell'Italia, e ci dicono che ha sospeso ma non ha abolito la leva obbligatoria dal 2005. I comuni sono tenuti a continuare a stilare le liste dei richiamabili e la coscrizione può essere riattivata su decreto del Presidente della Repubblica qualora i volontari non siano sufficienti in caso di guerra o di crisi internazionale. Attualmente pare che ci sono parecchie resistenze alla reintroduzione della leva da parte dei militari stessi, perché sono convinti che avere una cifra di coscritti inesperti siano, diciamo, più una seccatura che altro in un ambito di guerra moderna, ma questo, diciamo, ci viene questo è quello che dicono i militari. Invece le forze politiche di destra tornano effettivamente ogni tanto a sbandierare questa questione, quindi della leva, della reintroduzione della leva, più nell'ottica di un rafforzamento del sentimento di appartenenza nazionale, quindi per andare a colpire le emotività dei nazionalismi più spinti, che poi per effettiva necessità delle forze armate. Questo non ci è dato saperlo evidentemente, però un dato di fatto è che dal 2025, quindi da quest'anno, diversi comuni che avevano per anni trascurato la compilazione delle liste dei richiamabili sono tornati ad adempiere a questo compito. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, sia detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato, i figli che ho levato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie, il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà e dica pure ai suoi se vengono a cercarmi, che possono spararmi, io armi non ne ho. E dopo questa fantastica canzone, il cui testo è una poesia scritta un centinaio di anni fa da Boris Vian, che si chiama Il disertore, è molto importante dirci quanto è necessario, se non un obbligo morale, se non forse diciamo l'aspetto più importante in questa fase, nelle future, dirci in ogni caso, in ogni condizione, disertori o renitenti, per come forse è più adatto il termine alla fase attuale. Perché è abbastanza incomprensibile, forse per me un pochino inaccettabile, discutere sulle guerre in merito alle spese, ai soldi, al welfare che ne consegue, senza prendere un chiaro e forte posizionamento anche solo individuale, di rifiuto totale a non voler partire mai più per obbedire a chissà chi o a chissà cosa. E si fa secondo me un grande errore a criticare la disgustosa, sì in effetti è presente, area e diciamo così tendenza militarizzante che si vive all'interno delle scuole con la presenza di discussioni militari o comunque di una certa appunto tendenza a abituare questi bambini alle logiche militari, però senza mettere come primo punto nelle discussioni la questione della diciamo della diserzione appunto della renitenza. Se non si mette questo punto come punto centrale diventa un po' fuffa. E per concludere, diciamo sia chiaro che io non mi sento in assoluto un soggetto pacifista in questo mondo, perché non credo affatto che l'uso della violenza sia un affare di Stato, sia la violenza un monopolio di Stato, ma può essere utilizzata da gente come noi altri che lottiamo e in qualche modo ancora sogniamo di poter costruire un mondo migliore. E pertanto diciamo che, concludendo, sentire i sinceri nazionalisti democratici dirsi pacifisti in una fase critica come quella attuale è veramente retorica politica. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Si può scrivere, leggere o cucinare, non c'è da stare immobili, seduti lì a guardare, e forse è proprio quello che me la fa preferire, è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente. C'è anche di più perché libera la mente. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. E ancora in diretta da Radio Neanderthal per il Ponte Radio, noi volevamo ricordarvi di utilizzare la chat che trovate sul nostro blog radioneanderthal.noblogs.org per scriverci le vostre impressioni su questa trasmissione, che continua con altri due contributi delle trasmissioni che animano la regia di Radio Neanderthal, e quindi andiamo avanti con La Ghigliottina e poi Lo Stato Ammala. Buon ascolto. Attenzione, popolazione, felicissima giornata a tutto quanto voi. Io vi dico pazienza, ma abbiate a prima perché... Yombo, yombo, yombo, yombo. Un padrone mosso venne tutto cosa verica. E ti canci bocca, mo, chi lo poteca. Pena panino teca, che se se non frega. A viste sorde, se scorda, mo lune ricorda, tradizione. Sguarda e passione. Ancora in diretta Radio Neanderthal, giungemmo alla conclusione del Ponte Radio che ha aperto il mese di aprile con il tema della guerra. Avete sentito quattro spezzoni delle trasmissioni che animano la regia di Radio Neanderthal. Noi vi salutiamo, grazie per... Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Per l'ascolto, a presto. Tanto fila stocche, gioia ogni sorta. Tra sinte casa, un poco curioso. Guaiasse, cavasse, manite, geluso. Yes, bigoso, sono troppo sciandoso. Ma non mi paro casa, che ti sbatte queste cose. Papanina, birra, patatina. Magnelli, guina, che lupina, un bicchiere, vina. La roba genuina, frappina, vina, mina. Vedi Napoli, mega, mega, Brooklyn. Aia, fa baia, fa pure non quaia. Ma sbaglio, la una fe, guai, che se ci guaia. Mesh, caia, poi aveva parte. Messiah, sangue che pompa, bomba che assomba. Non puti qua tempo e fecchio. Ando come volo rato. Per domenica tomba, canta messa, metta tonica. Ma tu pazzi rigere, non pota bene rigere. Tutti in show, luna, scelta. Pazzi andi, chiama cazzi andi. Sferra, ma ferra, sgarretta, marra. Gienza, mila, delle guerra. Chi m'ha fatto guerra? Tata valetta, sua scena e esce solo. Ada con la vaga, messo l'ora. Stamane per ora, non vedo l'ora. Faccio paura e motta. Stento che fa crescendo. Amen. Come se mi grida appena. Amen. E fai finto con questa cazzina. Amen. Fanno te venga e chiunda in. Amen. Fanno te porti in dall'abbi. Se morti da noi che fissa. Fessa fissa ma non posso. Che non passa po' forte l'atlasso. Dici che dici che non esiste. Basta te cazzo. Non è meno un po' palliste. Chi non te ne pregge pegge. Se c'è che mi sanno ma non mi vuole. Che sanno che sono solo suon noi. Inna nanna non è. Un biloco che ha preparato a nascuna. Che cuoce, che ti sconce, che occupante. Che ti canta, prende che non prema te carte. Da che, chi non dice che non lo so. Che tante capelle, faccio magia. Sono una gente. Squilla campanella, nada trello, manella. Po' pazzarella, hai bro, moiarella. Tarantella, spubazze, pubatella. La pizza, stassa, si gente frirella. Bella, stiloso, con fracchisha. Se si è polo, si è da bassa. Tengo per me, se pe chi e pres pur qua nero si passo te se passa fuiena qui ne fatto largo mi sulo se ma tolo cazzono te piglia cardio bella gatto tiene cocco strano parlo mentre prima in ordine pensiere pomo parlo per te svena le femmine riccia su innamorata te rica verità tu è circa ociata mi pato un passato ma sato mamma non so bene